Sapete che effetto fa una voce che non sentivate da anni? È come un annullamento del tempo. Quando una voce che non senti da 20 anni ti chiama, è come se quei 20 anni lì non fossero mai esistiti. Per un attimo tutto quello che c'è stato in mezzo tra l'ultima volta in cui l'hai sentita e quegli ultimi secondi di vita, quelli in cui hai ascoltato il messaggio che ti ha lasciato in segreteria, sono annullati, cancellati. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Avevo 16 anni, ero in Inghilterra. Una di quelle vacanze studio in cui sei sempre con degli italiani. E quindi dell'inglese impari giusto a chiedere il gusto del milkshake da McDonald's. Uno degli ultimi giorni, l'organizzazione dell'AEF indice una sorta di olimpiade tra noi studenti. Una cosa a metà tra l'atletica leggera e i giochi senza frontiere. Io ero forte nel fondo, quindi mi iscrivo alla gara degli 800 metri. Non mi ero fidanzato, però avevo una cotta infinita per una ragazza tedesca che assomigliava all'attrice del film Momo, non so se ve lo ricordate, quello tratto dal romanzo di Michael Ende. Non mi ricordo nemmeno più come si chiamassero, né lei né l'attrice, però me la ricordo bellissima. Ero riuscito a convincerla a venire a vedere la gara, sicuro di sbalordirla. Prima però la invitai a pranzo da McDonald's, ovviamente. Avrei dovuto rimanere a digiuno, però pur di stare il più tempo possibile con lei, mangiai 3 razioni di patatine fritte. Pagai il conto senza sapere che lo scotto da pagare per quel pranzo sarebbe stato molto più alto. Andammo al campo di atletica, mi cambiai e mi riscaldai. Quando partii, come sempre, partii a razzo. Il primo giro davanti a tutti, il secondo mollai di schianto. Arrivai quarto, appena un gradino sotto il podio. Ma non era quello lo scotto da pagare. Lo scotto di quel pranzo lo pagai quando all'arrivo, in preda ad una convulsione, vomitai tutte le patatine fritte in mezzo alla pista, proprio sotto gli occhi della mia Momo. La rividi ancora lei, ma non riuscii mai più a rivolgergli la parola. 800240024 349-238-6666. Avete presente che cosa intendo quando parlo di scotto da pagare, no? L'avrete pagato un conto. Qualcosa per cui la sensazione è che ti godi una cosa e non puoi farla franca. Alla fine hai sempre da tirare fuori qualcosa. Non per forza soldi, però uno scotto da pagare ce l'hai. Ecco, se vi è capitato anche di recente, o magari no, però è talmente grosso quello scotto che vi rimane ancora impresso, 800240024 349 238-6666. Un po' come mi scrive Federico, sono andato a farmi un weekend romantico con la mia ragazza Sirmione sul Garda, ora sono rimasto indietro con biochimica e a breve ho l'esame, quindi lo scotto a pagare lo vedremo quando avrà finito l'esame. Sante invece mi scrive, sempre a proposito di studio, la mia pregrizia sui libri. Mi sono fermato a meno uno dalla tesi, meno uno immagino esami, dalla tesi di laurea. E poi tra virgolette, è laureato? Quasi. Cosa intende quasi? Mi manca un esame. Ah, quindi non è laureato. No, immagino che lo scotto da pagare qui di solito sia in soldi nello stipendio che ti danno dopo questi colloqui. Davide, ho affrontato a muso duro la mia ormai ex coordinatrice, invece di essere adorante e condiscendente, prendendo alcune banali decisioni contrarie a quanto lei sosteneva. Ho cercato lo scontro, sì, ad ogni modo oggi non lavoro più in quel progetto per la valutazione che la signora aveva del mio operato, col senno di poi è meglio così, ma nell'immediato è stata una sconfitta pesante da metabolizzare e lo scotto è stato tosto. Tommaso, non ho mai imparato bene l'inglese e dannazione, adesso che sono nel mondo del lavoro sto pagando tutto il conto. 800240024 349-238-6666. Qualsiasi scotto voi state pagando o abbiate pagato nella vostra vita. Io continuo a raccontarvi la mia storia come faccio tutti i giorni e proprio di questo oggi vi vorrei raccontare, di uno scotto che ho pagato e che in realtà sto iniziando a pagare in questi giorni. E a questo proposito vorrei prendermi giusto un minuto, perché quello che faccio sempre appunto è raccontarvi la mia storia, le piccole cose che mi accadono, quelle anche più grandi che mi sono accadute. In questi giorni sto vivendo una situazione abbastanza particolare che ha a che fare proprio con il mio passato, con un passato che si ripresenta e appunto ti chiedo un conto. Saranno delle puntate un po' difficili probabilmente da raccontare, però l'obiettivo è quello di cercare di restituire tutto quello che mi capita. È un piccolo diario quello che tengo ogni giorno alle 16 qui su Radio 24 e quindi ho deciso di raccontarvi tutto. Ha a che fare con delle persone che hanno fatto parte della mia, del mio passato, ha a che fare soprattutto con una storia importante del mio passato. Ero molto giovane, ero molto piccolo e adesso sta ritornando fuori tutta e completamente. Se avete voglia di stare a sentirvela, io tutti i giorni sono qui. Sapete, no? Che cos'è lo scotto? Lo scotto, per l'esattezza, era il prezzo da pagare per la consumazione di un pasto o dell'alloggio presso una locanda. Come termine in sé ormai è obsoleto, però è rimasto nel linguaggio comune all'interno della locuzione pagare lo scotto. E tutti noi sappiamo cosa significhi questo concetto, soprattutto perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché tutti abbiamo avuto la sensazione di dover pagare un conto, anche immaginario, di solito dopo aver goduto di qualcosa. Come se non fosse possibile provare piacere senza comprarlo. Come se non ci fosse delitto senza castigo. Venerdì sera, dopo aver cenato con Nathalie e averla portata a vedere i fenicotteri rosa in via dei Cappuccini, siamo tornati a casa. Siamo andati a letto e abbiamo fatto l'amore senza pensarci, senza quasi accorgercene, ancora con le luci accese. Ci siamo addormentati subito dopo e verso le 2 mi sono svegliato perché il riscaldamento si era spento e mi stavo congelando. Ho tirato sul piumone la coperta, io invece mi sono alzato, sono andato in bagno, ho chiuso la porta a chiave e ho spento le luci. Era la notte tra venerdì e sabato. Fuori Milano era congelata. La casa invece era tiepida. Mi sono affacciato alla finestra per guardare la strada gialla e deserta. Sentivo in bocca quel sapore che i 2 giorni liberi davanti a te hanno. Quella della notte ancora da godersi, fino alle 10 del giorno dopo. Della colazione fino a tardi, leggendo i giornali. E poi un cinema, la partita, una cena con gli amici. Insomma, mi stavo godendo quel piccolo momento magico che è la notte prima di un periodo di vacanza. Che sia di un mese, un anno o anche solo 2 giorni. Poi mi sono girato per tornare a letto. E sul divano ho visto la lucina rossa che lampeggiava. Quella del cellulare che ti indica che è arrivato un messaggio oppure che hai perso una chiamata. Io non avevo portato con me il cellulare al ristorante, quindi non era insolito che qualcuno mi avesse cercato in quelle 5 ore fuori casa. Però era venerdì sera. Avevo un fine settimana spensierato che s'apriva davanti a me, dopo una tranquilla notte di sonno. Avrei potuto lasciarlo lì sul divano, pensarci la mattina dopo, anzi, a pensarci bene avrei dovuto farlo. E invece no. Mi sono lasciato prendere dalla curiosità che una voce che ci cerca fa sempre crescere in ognuno di noi. Un po' come quando siamo ad una festa e sentiamo qualcuno che parla alle nostre spalle e dice il nostro nome. È impossibile far finta di niente e non girarsi. Quindi ho preso il telefono per vedere se si trattava di un messaggio o di una chiamata. Ed erano tutte e due. Anzi, erano 2 chiamate perse e 2 messaggi. Ho sbloccato la tastiera e ho guardato che numeri mi avessero cercato. Il primo era un telefono fisso. Non ce l'avevo in memoria, ma il prefisso parlava chiaro. 0321 era un numero di Novara. Il secondo invece era il cellulare di mia mamma. Non avrei saputo dire se il numero fisso venisse dalla città o dalla provincia. Ma non era nessuno della mia famiglia o nessuno dei miei amici, o almeno di quegli amici di Novara che erano solito chiamarmi. Lì ho avuto una sensazione improvvisa e violenta, di quelle che non sai perché ti vengono, e non sai nemmeno da dove vengano, ma sai esattamente dove vanno. Vanno in qualche posto che non ti piacerà. È una di quelle cose che qualcuno chiamerebbe premonizioni. Ho aperto i messaggi e ho scoperto che avevo 2 messaggi in segreteria. Il primo era della persona che mi aveva cercato da quel numero. Il secondo era di mia mamma. Ciao Matteo, sono Giorgio, Piacentini. Ti ho cercato a casa a Romentino, tua mamma mi ha dato il tuo numero di cellulare. Non ci sente da un po' di tempo, ma spero tu stia bene. Ogni tanto ti sento in radio. Senti, avrei bisogno di parlarti. Quando senti questo messaggio mi richiami 0321 87 23 456. Grazie. Ciao Teo, sono la mamma. Ha chiamato Giorgio Piacentini, sei quel tuo compagno del seminario? Mi ha chiesto il tuo numero di cellulare e io non sono riuscita a inventare una scusa e gliel'ho dato. Spero di non aver fatto un errore. Ciao. I'm not a man. I'm a man. Sapete che effetto fa una voce che non sentivate da anni? Sì, è come un annullamento del tempo. Cioè, quando una voce che non senti da 20 anni ti chiama, è come se quei 20 anni lì non ci fossero mai stati, come se non fossero mai esistiti. Per un attimo, tutto quello che c'è stato in mezzo tra l'ultima volta in cui l'hai sentita e quei pochi secondi di vita prima, quelli in cui hai ascoltato il messaggio che ti ha lasciato, sono annullati, sono cancellati. Quando ho sentito la voce di Giorgio Piacentini uscire dal mio telefono, sono improvvisamente diventato il bambino di 13 anni, quello che ero 22 anni fa. Ho sentito addirittura di avere paura dell'interrogazione del giorno dopo, di dover controllare sempre l'orologio per non perdere l'ultimo autobus per Romentino, di pensare di non essere ancora pronto per il liceo e di avere una voglia e una paura infinita di baciare una ragazza. Avevo avuto 13 anni nel 1988 e ce li avevo di nuovo venerdì notte. Il fatto però era che io non avevo nessuna voglia di avere 13 anni e non avevo voglia di averli di nuovo insieme a Giorgio Piacentini. Giorgio era quello che sapeva fare bene le cose che avevano a che fare con i numeri. Eravamo in classe insieme alle scuole medie, quello che ho fatto nel seminario di Novara, la seconda e la terza per l'esattezza. Io arrivai dopo il primo anno, quando i miei decisero che le scuole del mio paese non andavano bene. Lui fu quello più disponibile. Non è facile a 13 anni arrivare in un posto che non conosci, con persone che non conosci, ma che si conoscono tra di loro. Giorgio invece fu il primo ad invitarmi a casa sua per prepararci al compito di matematica. C'era sempre un gruppo molto nutrito di compagni che il pomeriggio prima si trovava nella tavernetta di casa sua e tra il tè e i toast che ci portava sua mamma tutti noi pendevamo dalle sue labbra. Ma credo che in realtà pochi capissero davvero. Lo guardavamo mentre faceva gli esercizi, mentre risolveva i problemi e l'unica cosa che riuscivamo a seguire era che alla fine il risultato tornava sempre. E dire che lui ci provava, eh? Tentava di mostrarci come fosse logica, come fosse precisa la matematica, no? Di come la fisica in fondo riguardasse le cose che ci circondavano, l'acqua che bolliva per il tè, la pala che rimbalzava nel cortile. Sembrava rendere le cose semplici, anche se per noi continuavano ad essere inaccessibili. Giorgio portava i capelli con la riga da una parte e faceva un gesto sempre, si passava spesso la mano per aggiustarsi il ciuffo, ma non era un vezzo, al contrario. Ho sempre pensato che aggiustarsi i capelli fosse un modo per coprirsi il viso con una mano. Credo fosse dovuto alla sua timidezza, al fatto che ogni tanto nascondersi, anche per un istante, dietro la propria mano, gli desse un piccolo sollievo. Era la stessa timidezza che c'era nel suo messaggio in segreteria, in quella pausa tra il suo nome e il suo cognome, come a dire Giorgio Piacentini, chissà se ti ricordi o se stai pensando Giorgio chi. Insomma, a me Giorgio era sempre piaciuto. Così come piaceva agli altri, così come piaceva a Claudio, ad Agostino e a Gaia. Ma cosa voleva da me? Perché mi cercava dopo che tacitamente ognuno di noi era sparito agli occhi degli altri? Avevamo 14 anni e quello che era successo era troppo grande per noi. E adesso che eravamo cresciuti di più, adesso che avevamo più di 30 anni, tutto era troppo lontano per tornarci. Ci ho pensato tutto il fine settimana, quello che speravo fosse spensierato e libero. Perfino Natalie se n'è accorta. Non le ho detto niente perché non c'era niente da dire. Poi invece, domenica, non ho più retto la tensione. Non lo so, forse non era successo niente. Forse Giorgio dopo 22 anni aveva sentito una puntata del programma e gli era tornata voglia di sentirmi. Ma forse no. Forse invece era successo qualcosa. E se era così, era inutile far finta di niente. Quindi ho preso il cellulare e ho fatto il suo numero. Pronto Giorgio? Ehi, ciao, sono Matteo, caccia. Our love was lost. C'è chi ringrazia Tiziano Bonini per la musica che mette. Questi sono gli Arcade Fire, finalmente. Come, quelli di prima erano gli Arcade Fire, ovviamente, non questi. Questi invece erano i Temper Trap. Comunque, tutti i titoli delle canzoni li trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Io Sono Qui. Oggi si parla invece di pagare lo scotto. 80024 0024 349 238 6666. Aveva avuto una supplenza che poteva durare per tutto l'anno scolastico. Erano passati già 2 mesi e non avevo visto ancora il becco di un quattrino. Vado al preside per presentargli il mio disappunto e lui mi dice che avevo ragione e che potevo andare in segreteria per ritirare quanto mi spettava e che si concludeva lì il periodo di supplenza. Sì, però insomma, lo scotto era che lui era un imbecille, non che tu sei andato a chiedere i soldi. Enzo mi dice: vomiti spesso davanti alle ragazze, Matteo, hai mai pensato di fare coming out? No, è che vomito anche non davanti alle ragazze di solito. Comunque, dovessi mai farlo, Enzo sarà il primo a saperlo. Con la cassa integrazione avevo tanto tempo da gestire, potevo imparare l'inglese o laurearmi. Ho scelto la seconda cosa, cioè laurearmi, ma oggi mi serve la lingua per il lavoro. Antonio. Ma se invece arriverà un momento in cui ti servirà la laurea per cui ti sei laureato. Poi invece ho ricevuto questo messaggio oggi sul profilo Facebook a Matteo Cacci, io sono qui. Elisa, a proposito proprio di scotto da pagare, ho firmato una fideiussione su un prestito richiesto da un ragazzo che mi ha lasciata e adesso sto pagando le rate perché si è data la macchia. Mi sembra uno scotto esemplare. Pronto Elisa? Sì, pronto. Ciao, ciao. Direi che è decisamente uno scotto esemplare questo. Decisamente, sì. La chiamo la tassa sulla stupidità. Quanto tempo fa è successo? Beh, è successo nel 2009, quindi è un anno e mezzo che sto pagando la mia piccola tassa, diciamo. Senti, quanto ci puoi dire quanto è e quanto paghi al mese? Ma guarda, sono 100 euro al mese, non sono neanche tanti. Sono 5.000 euro in tutto, finirò a gennaio 2015 di pagare. Beh, però, di fatto, insomma, averceli 100 euro è meglio che non averceli al mese, sì, giusto? Beh, in teoria sì, poi per me che sono giovane, insomma, 100 euro in più... Senti, sarebbero... mi dici perché, cioè, perché lui aveva chiesto questo prestito? Ma lui perché si parlava di andare a vivere insieme, però in realtà ero giovane e anche un pochino ingenua, diciamo. Ma era un anno fa, scusami Elisa, quanti anni hai? Io ho 22 anni. Di dove sei? Sono di Vicenza. Ok, senti, com'è andata a finire? Beh, che stai pagando 100 euro al mese, quello l'ho capito, ma con lui dico... Ma niente, lui praticamente, abbiamo avuto un attimino un litigio, l'ha usato come pretesto, ha pagato tutti i debiti che aveva qui al nord ed è tornato a vivere nel suo paese natale, al sud. Senti, com'è che l'hai conosciuto questo, Elisa? Ma l'ho conosciuto ad un concerto. Di chi? Ad un concerto metal del Sonata Artica. Scusami, Elisa, perdona. Sì, lo so. No, non c'è niente da ridere. Mi fa ridere il fatto che esista ancora il metal, mi piace da morire. E non mi ricordo, non ho capito come si chiama il gruppo, però. Sì, sono in Sonata Artica, è un gruppo finlandese, molto bravi, tra l'altro li consiglio. Guarda, adesso dirò a Bonini di mettercene un pezzo, così magari ti tornerà alla mente quel concerto. Quanto è durata la storia? Ma ero ingenuo e giovane, era un anno che stavamo insieme neanche. Quindi diciamo, alla fine 5.000 euro per un anno fanno, come dire, ti pagavi un affitto per i fatti tuoi alla fine. Ma abbondante anche, direi. Adesso stai con qualcuno, Elisa, oppure ci pensi un attimo? No, adesso sono già fidanzata, una storia tutto bene. Insomma, tutto normale, niente prestiti, niente fideiussioni. Benissimo. Elisa, ti faccio tornare al lavoro, cosa che stai lavorando. Ti ringrazio. Comunque colgo l'occasione per fare un appello, se ci sono bancari all'ascolto sicuro, all'ascolto, Radio 24 è molto facile. Che mi diano, magari sanno qualche suggerimento per aiutarmi ad uscire da questa situazione. Va bene, magari gente che non ascolti metal, gente che ascolti anche solo pop italiano. Sì, va bene lo stesso, va bene tutto. Elisa, grazie mille, ciao, in bocca al lupo. Ciao Matteo, ciao. 80024 0024, dopo la borsa io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo inequivocabilmente in un giorno di festa, anzi direi in una notte di festa. Siamo all'aperto, è notte, il cielo è scurissimo, però la foto è piena di luce, chiaramente fuochi d'artificio. Sono Pierluigi Martena, ho quasi 36 anni, sono a Novoli, nel Salento. In onore di Sant'Antonio Abate si è accesa la tradizionale focara, un enorme falò di tralci di vite secchi. Io sono qui. Grazie mille a Focara, La focara sarà probabilmente. Grazie mille Pierluigi. Io sono qui, @radio24.it, per continuare a mandare le vostre foto oppure il profilo Facebook. Matteo Caccia, io sono qui. Sono arrivati invece una serie di messaggi tutti dedicati ad Elisa, la nostra ascoltatrice metal. Forse veramente l'unica ascoltatrice metal di Radio 24. Se ce n'è qualcun altro all'ascolto, vi prego. 349-238-6666. Allora, innanzitutto mi scrivono che... me l'hanno scritto, ma Viola mi aveva scritto, ma ho perso chi erano il gruppo che lei andava ad ascoltare. Intanto, messaggi per Elisa. Messaggio per Elisa: se lei non ha stipendio e non ha immobili, potrebbe non pagare, rischia l'iscrizione come cattiva pagatrice, comunque non paga i 5.000 euro paride. Io temo però che Elisa abbia un lavoro e quindi ha uno stipendio, visto che stava lavorando. E poi questo messaggio sinceramente non lo capisco, lo leggo solo perché non lo capisco. Io da vicentino mi scuso con la nazione tutta e dico a lettere maiuscole che noi vicentini non siamo e non parliamo così, scusateci. Guarda, io trovavo Elisa adorabile per il suo accento vicentino e soprattutto per la sua storia, la sua sincerità. E poi tassato anch'io con uno scotto per la stupidità. 3 anni insieme per aiutarla, lei ovviamente, a laurearsi, e 3 giorni dopo la laurea mi ha mollato, rapinando i regali mio, di mia sorella e dei miei amici. Armando, PS, si è laureata l'11 febbraio, ci teneva evidentemente, continua a seguirla. Andiamo invece a sentire subito le telefonate, perché di scotti da pagare ce ne sono. Andiamo da Paolo da Milano. Pronto Paolo? Ciao, come stai? Ciao, io sto bene, tu? Bene, grazie. Raccontami il tuo scotto da pagare, o che hai pagato. Allora, il mio scotto è stato che dopo un po' di anni da imprenditore e con poche soddisfazioni ho deciso di fare un crack finanziario con la mia azienda. In che senso, Paolo, scusami, in che senso hai deciso? A tavolino? Sì, ho deciso e ho pianificato tutto e ho detto va bene, da oggi... pagherò questo scotto e però farò un po' di soldi. E così è stato, è successo quasi 15 anni fa e mi sono fatto questo grosso fallimento e mi sono presentato dal giudice, dal PM, il quale mi ha detto candidamente che se restituivo i quattrini, il malloppo, non avrei fatto la galera, anzi ne avrei fatta pochissima. Ma invece ho scelto di vivere poi un secondo periodo della mia vita agiata con questi soldi, e però ho fatto... Quanto hai fatto di carcere? Dunque, la condanna era 4 anni, poi è venuto l'indulto, grazie a Dio, per me ovviamente, certo. E ho fatto solo 1 anno. Quindi, scusami, questo è chiaramente materiale per Barisoni, non per me. Tu hai fatto un crack finanziario e ci hai guadagnato dei soldi da quel crack, pur di non piuttosto che pagare quei soldi, hai semplicemente fatto la galera. Così è andata. Perfettamente. Dove, in quale carcere l'hai fatto? L'ho fatto a Modena e a Mantova. Senti, dimmi un ricordo dell'anno in carcere, Paolo. Tanta tristezza e tanta povera gente. Adesso cosa fai nella vita? Adesso sono un piccolo imprenditore, però me la godo sostanzialmente, vado in giro con la Porsche, mi faccio 2 mesi di vacanza. Senti, prima di salutarti, allora, confessami una cosa, quanti soldi erano quelli per cui hai pagato in carcere? Più di 1 miliardo. 1 miliardo di lire, spero? Lire, sì. Va bene. Paolo, grazie, grazie mille. Grazie. Sei in Porsche in questo momento? Sì, sono in Porsche. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Cambiamo completamente argomento. Andiamo invece da Raffaella. Pronto Raffaella? Sì. Ciao, buongiorno. Sì. Senti, io leggevo prima la tua storia. Tu mi hai scritto: ho deciso di seguire la mia natura di transessuale. Per anni ho pagato lo scotto nel lavoro e con gli affetti. Ora ho un bel lavoro di successo, ho una stupenda donna che mi ama e che amo. Com'è andata esattamente? Quale lavoro hai dovuto, quale scotto hai dovuto pagare sul lavoro e poi com'è cambiata la storia? Lavoro, ho pagato lo scotto che nel momento in cui cambiavo ovviamente venivo vista come il semplice puro oggetto che per molti uomini di essere una transessuale, come se non ci fosse nient'altro che il sesso, certo, che caratterizzasse una, sì, transessuale, quindi perdendo di vista tutti gli aspetti di professionalità, di serietà e così via. Ma poi hai cambiato lavoro, Raffaella? No, riuscita a mantenere sempre lo stesso lavoro, malgrado anche molte, diciamo, pressioni a lasciare, diciamo, perché chiaro, poi è molto sottile, perché poi se no diventerebbe mobbing, diventerebbe Senti, ovviamente una La donna con cui stai adesso l'avevi conosciuta prima, o durante o dopo il tuo passaggio di sesso? Allora, innanzitutto non ho cambiato sesso, okay. Mantengo le generalità anagrafiche maschili. Ok. E la donna l'ho conosciuta dopo, che è un'imprenditrice, e quindi devo dire che non potevo trovare di meglio, ecco. Immagino. Senti, quindi lo scotto l'hai pagato, però adesso ti sta invece portando a casa la parte buona, direi. Diciamo di sì, ci è voluto praticamente 10 anni, ma devo dire che ci sono riuscita, insomma. Mi puoi dire che lavoro fai? Sono nell'ambito di innovazione scientifica, okay. Non ti sto a dettagliare. Tu niente bancarotta e niente miliardi no, con no. La Porsche, ok. Raffaella, ti ringrazio molto, ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Grazie. Ciao, buona giornata, grazie mille. Mi spiace per le persone che non sono riuscito a sentire, però abbiamo fatto in tempo a prendere solo 2 telefonate. Allora chiudiamo. I Sonata Artica sono un gruppo musicale power metal finlandese fondato nel 1996 a Kemi. Credo che si legga così. Ora invece, proprio perché io ho cominciato a raccontarvi la storia che sto vivendo in questi giorni e che non so come andrà a finire sinceramente, ma che continuerò a raccontarvi, vi voglio leggere la prima parte di una piccola storia che mi è arrivata. Sempre io sono qui, @radio24.it, me l'ha scritta Luca ed è la sua storia ed è a puntate. Ciao Matteo, sono Luca e io sono qui. Ti mando questa mail e non sarà l'ultima. Ti racconterò la mia storia, un pezzo alla volta, una mail alla volta. Ho 43 anni, vivo a Cremona e sono separato da 4 anni. Ho un figlio bellissimo di 14. Faccio il geometra, ho un piccolo studio di consulenza e lavoro a tempo pieno nell'azienda di mio padre, sempre nel campo dell'edilizia. Ultimamente il settore è quello più colpito dalla crisi e quindi io ne sono coinvolto. Vedo mio figlio a fine settimana alternati, come si fa normalmente in tutte le separazioni. I 15 giorni che mi separano da mio figlio li vivo contando i centesimi che ho in tasca. Letteralmente, conto i centesimi per vivere. Cerco di comprare il meno possibile per mangiare. Rovisto fino alla fine della dispensa, nei posti dove si dimenticano le cose. Per me sono tesori da scoprire. Salto il mio caffè quotidiano o al massimo con aria gentile trovo amici che me lo offrano. Questi ultimi 15 giorni li ho vissuti con 10 euro. Non è la prima volta, ma è così. Parto lunedì dicendo, bene, 10 euro, 5 euro a settimana. Il giornale lo leggo in piedi al bar, magari davanti ad una tazzina del caffè vuota. Non è il mio, ma con tranquillità si può far credere. Il pane non lo compro, e se lo compro chiedo espressamente 50 centesimi di pane. Mangiare non è un problema, si salta. A pranzo quasi mai, anzi, mai. La sera si finisce tutto, ogni scorta, non si butta niente. Passo le 2 settimane sperando che non capitino imprevisti, altrimenti sono guai. E tutto questo per arrivare al fine settimana con mio figlio e concedermi una pizza, una cioccolata, per dargli un paio di scarpe, un paio di jeans, o quei 10 euro di mancia che ti fanno sperare in lui. Lo so, qualcuno starà anche peggio, ma questa è la mia storia e io sono qui, Luca. Grazie Luca, grazie davvero. Io sono qui, @radio24.it, se avete voglia di raccontarmi la vostra storia o piccole storie vostre, anche a episodi, anche in piccole parti. Ringrazio tutti, ringrazio Pietro Lacorte, Viola Bottoni, Tiziano Bonini. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori metallari che scrivono a Radio 24, Francesco da Verona, 28 anni, artigiano metallaro, fino alla morte, ascoltatore metallaro tassista, ascoltatore metal di Radio 24. Io sono in camion e sono orgoglioso di essere metallaro e vicentino. Domani non lo so, ma oggi io sono qui e voi dove siete? We'll be right back.